Luca. Abbiamo una nuova sigla, grazie, grazie, grazie. Non Cadavrash, Cadavrash. La sigla è di Cadavrash. Tarata, lavora, lavora! Allora, tornate a lavorare, fase 2, si torna a lavorare, costi quel che costi, muori, muori lavorando. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro forzato. Il nostro sindaco lombardo ci ricorda che nonostante non si sia risolto la questione Covid, è necessario tornare comunque a lavorare, ognuno assumendosi la responsabilità, questa volta in maniera personale. Siamo noi che dobbiamo ridurre la nostra vita al minimo rischio di contagio, quindi l'unica cosa che possiamo continuare a fare è lavorare. Non si può andare a mangiare una pizza, non si può andare di certo a ballare, figuriamoci fare un'orgia, però andare a lavorare sì. Io penso che bisognerebbe riconsiderare tutto da capo. Qui è Maria Tinca e un bacio a tutti quanti. Allora amore, anche oggi orgiata? Un'orgiata bella fresca. Va bene, allora ragazzi, benvenuti, benvenuti. Oggi parleremo di orgia. Hai ancora orgia? Ebbene sì, parleremo di nuovo di orgia. Questa volta partiamo sempre dal Sex Positive Corner, ma ascoltiamo, intervistiamo il mio socio Bruno Bastoni, Lucio Massa, amico e cineasta, post-porniano e che altro termine? Horroriano. Orgia, e sai cosa bevi? Una delle ultime orge che abbiamo organizzato è stato il Sex Positive Corner, che non si tratta essenzialmente di un'orgia organizzata, quanto più di uno spazio allestito, gestito e curato in modo tale che potesse predisporsi per accogliere energie orgiastiche. Come nasce l'idea di creare un Sex Positive Corner? Nasce il Sex Positive Corner nasce a seguito di una serie di orge che abbiamo organizzato una volta al mese come Rosario Gagliardo, orge a numero chiuso, guidate da Rosario Gagliardo, praticamente laboratori orgiastici. Il Sex Positive Corner quindi nasce da questa esperienza. Caro, raccontaci come nasce e che cos'è e soprattutto come è gestito. Ciao, sono Bruno, un'altra metà di Rosario Gagliardo. Per quanto riguarda, insomma, come nasce il Sex Positive Corner, mi ricordo che i ragazzi di Buca ci chiamarono per chiederci una partecipazione e insomma eravamo lì nel quesito di cosa organizzare per questa fantastica festa, una festa che comunque ci è sempre piaciuta e abbiamo sempre seguito. E niente, insomma, stanchi di proporre le solite performance, abbiamo poi optato per questa sorta di dark room che non è dark, per questa piccola discoteca nella discoteca, dove vigevano altre regole, insomma, dove c'era la possibilità di agire sessualmente, cosa che non è possibile nelle feste danzanti solitamente del nostro secolo. Effettivamente c'è un processo di sacralizzazione della sessualità da tanti secoli, non solo nel nostro. E cosa vuol dire sacralizzare una cosa? Vuol dire toglierla dall'uso comune e dedicarla solamente all'uso degli dèi, gli uomini non la usano più. Profanarla significa rimettere quell'oggetto dall'uso per Dio, per la divinità, all'uso di nuovo comune, che è quello che spero abbiamo fatto con il sex positive con la sessualità nel Sex Positive Corner. Il Sex Positive Corner quindi è quella parte della discoteca dove finalmente non si effettua più la crasi della sessualità e quindi ci si può esprimere sessualmente. Cosa succede? Succede che da competitivi si diventa collaborativi. Succede che finalmente c'è un intento comune dichiarato e lo si persegue insieme. L'esperimento ha chiaramente funzionato, le cose sono andate veramente così tutte le volte che l'abbiamo fatto, e sono state due. Sex Positive Corner 2. Sono state due, ed è stato molto bello. Cosa succedeva all'ingresso, misteriosamente? All'ingresso c'ero io e succedevano effettivamente due cose. La prima cosa, appunto, era venire informati del regolamento. Venire informati del regolamento significava leggere per chi era in condizioni e riusciva a farlo, un piccolo foglio, dove, oppure insomma, venire ragguagliati da me quando evidentemente non c'era altra possibilità. Sì, abbiamo stampato molti fogli, ma non sempre purtroppo venivano letti, e non sempre erano adeguati per il pubblico che si presentava in quel momento per diverse ragioni. Allora, il regolamento consisteva in due punti particolarmente importanti, più altri ancora, ma i due che possiamo riassumere erano, prima di tutto, evitare qualunque tipo di body shaming, e secondo, prestare molta attenzione al consenso. A molte persone, ribadivo io stesso, non potete fare nulla se prima non avete un consenso esplicito dalla persona con cui vorreste fare questa cosa. Quindi questa cosa, più evitare assolutamente di fare body shaming di ogni tipo, erano le due condizioni. E noto che queste due cose dette all'ingresso hanno contribuito a una forma mentis, cioè le persone entravano sapendo questi due punti, alle volte dicendo, guardandoli come non ci avevano neanche pensato, però il fatto di essere introdotti così li metteva in una forma mentis, secondo me, molto costruttiva. Infatti non ci sono mai stati incidenti nessuna delle due volte, direi di nessun tipo. Questa era la prima cosa che veniva fatta all'ingresso. La seconda cosa era chiaramente gestire il flusso di ingressi, secondo principalmente, dando principalmente la possibilità di essere all'interno del Sex Positive Corner in un numero congruo di persone, quindi senza affollarlo. E questo era difficile perché molte persone entravano e non avevano nessuna intenzione di uscire. Molte persone sono entrate solamente per poter ballare senza vestiti addosso. Questa è una delle cose più belle, secondo me, anche. E quindi, una volta trovatesi dentro e comode, non avevano nessuna intenzione di uscire. E la seconda, quindi, controllare il numero effettivamente delle persone dentro e controllare che il numero di persone identificate nel sesso maschile e nel sesso femminile fosse equivalente, più o meno. Poi chiaramente c'erano delle persone che apparivano totalmente incompatibili con la situazione già da fuori, e quelle magari venivano escluse, però era proprio un numero esiguo di persone. Io spesso dico che noi non facciamo selezione alle orge. Cosa intendo? Intendo che non è che entra quello bello o quella bella o quello o quella che ne so, delle referenze sessuali particolari. Io ho l'idea che se tu arrivi a me sei pronto, perché avrai dovuto confrontarti con così tante paure, freni inibitori, luoghi comuni, menate tue private esistenziali, che se le hai superate tutte, cioè, vuol dire che sei pronto. Sex Positive Corner di Rosario Gagliardo, un posto di festa, ma anche di accoglienza dei corpi e del desiderio. L'ingresso a questo spazio è selezionato in base allo spirito, l'amicizia e la simpatia. Non basta mettersi in coda. Ma per poter entrare, devi metterti in topless. Se non vuoi che nessuno interagisca con te, indossa la collana di fiori. In questo spazio puoi... Allora, prima di continuare con le regole, già qui ci sono due punti interessanti. Il primo era quello di doversi mettere in topless. Questa regola, fortemente caldeggiata anche dagli organizzatori, dai ragazzi di Buca stessa, era un grosso filtro iniziale. C'erano molte persone che non volevano mettersi in topless, e molte che lo erano già. Naturalmente i maschi non avevano nessuna difficoltà a mettersi in topless, perché il maschio non è sacro, il corpo del maschio non è sacro, il maschio è bestia. E invece molte donne non volevano mettersi in topless perché purtroppo il loro corpo è ancora sacro, poverine. Allora, c'erano diverse donne, c'erano quelle che mi guardavano come per dire ma in topless, ma io non ci sto neanche di fianco a mia sorella, no? E quelle naturalmente andavano via. Poi c'erano quelle che mi dicevano ma io ho un vestito intero, mi sento scomoda, ma, amore mio, toglilo, no? C'erano quelle fantastiche, molto, quelle le mie preferite, quelle veterofemministe, con l'approccio veterofemminista che mi dicevano il corpo è mio e me lo gestisco io. Ecco, quelle erano le più divertenti e la mia risposta soddisfatta era e la festa è mia e tu non entri. Quindi questo era la questione del topless, devo dire, era già un filtro importante. Ed era anche difficile in quel grosso flusso di persone a riuscire a gestire questa cosa, perché veramente soggetti tutti di sesso femminile erano molto molto recalcitranti sulla cosa. Non si capisce bene perché ci tenevano fortissimamente a entrare, ma con reggiseno, chissà, non vai a sapere. Credo che appunto questa cosa del maschio bestia e della donna santa sia un problema per entrambi i sessi, eh? Bisognerebbe proprio eliminarlo. Domanda, qual è il motivo per cui insistevamo col far entrare tutti in topless, sapendo che per un uomo non cambia un granché, ma per una donna invece cambia tanto, perché il petto della donna è censurato in maniera diversa da quello di un uomo, lo vediamo già sui social, no? Ma banalmente perché evitavi l'ingresso di, per esempio, la classica coppietta tossica, con lui un po' falchetto e lei molto dietro, magari lui ha il permesso della coppia a fare cose, lei no, oppure lei lo tiene poi col guinzaglio corto, sai, la tipica coppia latina per cui sono anche gelosi, per cui poi lui guarda un'altra, entrano per curiosità come turisti, ecco l'effetto del turista, questo lo abbiamo evitato, entrano come turisti perché tanto a me cosa mi costa togliermi la maglietta, la mia ragazza invece se la tiene e loro entrano così tossici all'interno di questa cosa con uno spirito terribile, che non c'è questo spirito matrimoniale impiegatizio terribile, piccolo borghese ma anche meno, che veniva così evitato. Lo abbiamo fatto appunto per evitare un certo tipo di mentalità, primo quella turistica, quella del curioso che entra a guardare e quindi si crea l'effetto acquario con questi animali che scopano e noi che li guardiamo mentre ci sorseggiamo il drink e siamo lì al massimo a limonare tra noi due. Quindi prima di tutto questo, e poi per mettere in discussione in una punto così nevralgico proprio la dinamica, la mentalità del patriarcato, quella per cui il corpo della donna è santo e sacro e va protetto, capisci? Questa cosa qua noi l'abbiamo magistralmente, direi, evitata in questo modo. Allora, e poi c'era un'altra cosa che era il dispositivo della collana di fiori. Questa è una cosa che ci portiamo dietro dall'esperienza pregressa delle altre occasioni di orgia e workshop orgiastici che avevamo ingegnerizzato le volte prima. La collana di fiori è un semplice dispositivo che dice io sono dentro, in questo momento però non ho intenzione di interagire con nessuno di voi. Quindi è un segnale come per dire ci sono, ma non toccatemi, al massimo prendo io l'iniziativa, che credo sia un diritto in ogni caso, quello di poter scegliere. Io non ho, poi dopo, insomma, leggeremo il regolamento, la questione del consenso c'è sempre. Allora, il regolamento, procediamo. In questo spazio puoi, 1. Spogliarti di tutti o di parte dei tuoi abiti. 2. Apprezzare la bellezza del corpo, qualunque sia la sua forma. 3. Essere eccentrico e libero nel look e nei modi. 4. Connotarti nel genere e nell'orientamento sessuale che preferisci. O non connotarti affatto e rimanere fluido. 5. Puoi toccare, flirtare, compiere pratiche sessuali con chiunque esprima chiaramente il suo consenso. In questo spazio non puoi 1. Entrare senza toglierti un indumento che copre la tua pelle. 2. Decidere o schermire, deridere, scusatemi, o schermire il tuo prossimo. 3. Stare addosso a chi non è felice in maniera esplicita delle tue attenzioni. E 4. Cercare di avere rapporti con persone troppo fatte per poter essere responsabilmente consenzienti. Questo diciamo, è il regolamento in cui si capisce che il focus è chiaramente quello sul consenso. Quindi ti diamo il benvenuto, ti auguriamo che tu riesca a liberarti quanto ti è possibile delle sovrastrutture che di solito ti porti a spasso, ma ti ricordiamo che stanno facendo la stessa cosa anche gli altri e quindi si naviga con la regola del consenso. Allora, quando parliamo di consenso non intendiamo assenza di criticità, ma lucidità nel percepire l'accoglienza, l'apertura e appunto l'essere complici dell'altro. Quindi in realtà si tratta prima di tutto di ascolto dell'altro. È importante che il consenso sia frutto di ascolto. Ci sono delle situazioni paradossali in cui il consenso come dire, preso in maniera sbagliata, quindi c'è la questione per cui io chiamo gli organizzatori del locale perché camminando mi sono sentito che tu probabilmente mi hai sfiorato la natica destra. Questa roba qui è, diciamo, abbastanza tossica secondo me e ti porta poi ad avere una situazione eccessivamente safe, eccessivamente positiva, senza nessuna negatività. Quindi una situazione fondamentalmente buona per il capitale, per commerciare, per vendere drink o qualcos'altro. Invece l'erotismo non funziona così. L'erotismo ha bisogno di negatività, ha bisogno dell'altro. Avere l'altro significa ascoltare l'altro, non subirlo. Quindi il consenso e quant'altro dovrebbe sempre essere una situazione di ascolto e non una situazione di regole ferree e gendarmeria pronta. Questo secondo me è molto importante. Sì, perché abbiamo notato quando all'interno di situazioni nelle quali si sta sperimentando l'ascolto del consenso e in un'ottica di sex positive, a volte capita che si inneschino invece delle condizioni di grande allarme in cui ci sono proprio le vedette, cioè dentro di noi si accende un poliziotto che controlla che nessuno sia aggressivo, ma se non c'è aggressività, non c'è incognita, non c'è pericolo, è il sesso Disneyland. Sì, è una roba che va bene in una situazione di commercializzazione e capitalizzazione del divertimento, della sessualità, come avviene in molti locali, in molti posti in giro per il mondo. Però non è una situazione umana, buona per l'erotismo vero e per un'esperienza reale. Appunto, ripeto, il consenso dovrebbe essere, come dire, una conclusione dell'ascolto. Quindi ascolto, accorgersi che l'altro esiste, rendersi conto che l'altro non è il personaggio della nostra fantasia, che sembra una sciocchezza, ma in realtà non è così facile. Quindi percepire l'altro non come personaggio della nostra fantasia, ma come variabile, che è realmente un'incognita. Quindi lasciare che l'altro porti il suo. E aspettarci di avere a che fare con qualcuno di vitale, quindi qualcuno che partecipa in maniera attiva e non che viene trascinato dagli eventi perché devono andare così, è così che devono andare. Come dicevo prima, secondo me il dispositivo orgiastico nella socialità è proprio quella cosa che fa avvenire il miracolo della vera cooperazione. Ma è chiaro, no? Nel regno animale la riproduzione, la sessualità è una questione di competizione ed è bene che sia così. Perché la competizione della sessualità è quella cosa che insomma fa nascere la biodiversità. Però l'uomo aggiunge un tassello in più. L'uomo capisce che cooperando è più forte e il simbolo massimo della cooperazione è proprio dire io in questo momento, in questa occasione, in questo carnevale io rinuncio a competere con tutti voi e coopero con tutti voi nella cosa più ancestralmente competitiva che c'è, cioè il sesso. Secondo me questa è sempre stata la valenza dell'orgia nei secoli e può ancora esserlo, di fatto ancora lo è. Così abbiamo scritto. Esprimi e chiedi il consenso in tre mosse. Lo sguardo e il sorriso significano mi interessa sentire cosa hai da dire. Se l'altro si allontana, non inseguirlo. Prima di toccare l'altro, fate una domanda esplicita. Mi piacerebbe baciarti, toccarti la mano, succhiarti il lobo dell'orecchio. Deve esserci la risposta sì, lo voglio, altrimenti è da intendersi un no. Qualunque disagio potete segnalarlo allo staff che riconoscete grazie al terzo occhio dipinto sulla fronte. Chiunque ci sembrerà non idoneo verrà fatto allontanare. Questo in realtà serve proprio a suggerire anche alle persone di essere chiare. Perché molte volte sono le stesse le persone, molte volte le persone non sanno manifestare con chiarezza quello che vogliono. Non sanno se possono dire no, non dicono chiaramente sì, non sanno nemmeno bene come porsi. Quindi questo più che altro serviva a dare un suggerimento a chi viene predato, in che modo dichiararsi consenziente o meno consenziente, prendere tempo o addirittura proprio troncare. E comunque sì, siamo bambini e dobbiamo imparare da zero, evidentemente, anche queste cose. Che molto spesso non è che le persone mancano dell'ascolto, del consenso dell'altro per cattiveria o perché pensano che sia cosa buona e giusta prevaricare l'altro, ma mancano delle coordinate, proprio mancano della conoscenza di quello che può essere un codice di comunicazione. Questo perché? Perché fanno poca esperienza, perché tutti noi facciamo molta poca esperienza di sessualità, sensualità, erotismo e intimità condivisa. E poi anche perché molti di noi vengono allevati in casa, in famiglia, senza rispetto e senza rispetto di quello che può essere il nostro consenso. Una modalità tipica nell'educazione dell'infanzia è la coercizione. Quindi noi fin da piccoli veniamo cresciuti senza prestare forte attenzione a quello che può essere appunto il consenso dell'altro. Siamo abituati a usufruire di servizi offerti da persone che sono obbligate da contratto a soddisfare i nostri bisogni perché li stiamo pagando. Siamo abituati a obbedire a direttive perché sono state imposte da persone che hanno un'autorità su di noi. E nel momento in cui invece siamo in una situazione orizzontale, come quella dell'approccio erotico, in cui appunto questo tipo di gerarchie, questo tipo di comportamenti risultano molto meno digeribili, che invece li applichi sul posto di lavoro, a scuola, in famiglia, funzionano, li applichi all'orgia, stridono tantissimo, mancano proprio delle conoscenze. Io non mi alzo da questo letto. Basic income. Lavorare, a lavorare. Il brano musicale è A farvi curare delle putas domestica. Ok. Ciao Lucio! Ciao! Come stai? Ah, è nella fase 2 della quarantena, direi. Come sta andando questa fase 2 della quarantena? Guarda, io mi sto esercitando particolarmente nel stalkerare i delivery del food, cioè a me questa roba che arrivano a casa, no, ti portano la roba da mangiare, cioè mi arrapa parecchio. Bene, allora presentati. Allora, io sono Lucio Massa e mi occupo da alcuni anni di pornografia, di produzione di film porno e post pornografia. Quindi sostanzialmente diciamo che negli ultimi anni mi sto cercando di interessare di quella che è un po' una ricerca sul corpo, una ricerca soprattutto sui corpi marginalizzati, no? Su desideri sconvenienti, su temi, no? Anche che creano in qualche modo una forma di contrasto, di confronto più che altro, direi, no? Cioè cercare anche un po' come ogni tanto provi te ad argomentare quando ci si trova in discussione, magari pubbliche, no? Poi ci sono punti di vista differenti, però sai che il tipo di ricerca che proviamo a fare noi, che provate a fare anche voi come Rosario Gallardo, spesso crea polemica, crea anche disagio, cioè, talvolta nelle persone, no? Cioè la non accettazione del concetto di puttana, il concetto di vedere corpi che non sono normati, i corpi grassi, i disabili, cose che la gente mediamente non vuole vedere, che in qualche modo poi viene infastidita da questa cosa, anche proprio tutto, no, tutto il lavoro che voi avete fatto da anni, no, nello scardinare il tema della rivendicazione dell'essere troia, no? Mi sembrano degli argomenti di grandissima attualità, che soprattutto creano pericolo sociale. Cioè, la mia sensazione è che tutte le volte che poi si vadano a toccare certi argomenti, la gente che mediamente è incastrata dentro la società poi inizia a dire questa roba è pericolosa. Cioè, ogni tanto a me mi capita, no, che questi qui ti dicano, no, sei pornografo, attenzione, oppure che ne so, no, su persone che uno frequenta, allora inizia a dire attenzione, questo fa il porno, è pericoloso. C'è proprio un'idea che secondo me è proprio dall'altra parte di dove stiamo poi. Cioè, tu stai parlando di un pregiudizio su chi fa pornografia? Sì, ma quel pregiudizio che poi è frutto dell'andarlo a spiare dal buco della serratura, cioè è il solito, no, finto perbenismo in cui formalmente ognuno si deve masturbare su YouPorn, però nessuno deve dirlo, e se lo deve dire, attenzione, deve fare il distinguo, questo così, a me mi serve 5 minuti per venire, però non di più, oppure... Io ti sto citando cose che ho sentito. Anche io, no, le ho sentite, quindi le conosco bene, ti si accappona la pelle più che altro perché dici, oddio, come la colloco nell'intelletto dei fatti? Ma perché poi alla fine, guarda che il lavoro che stiamo cercando di fare tutti è proprio quello di rompere questo schema e di creare quindi un contrasto forte, cioè un dubbio in queste persone che poi alla fine... tendenzialmente rifuggono criticando e basta, dicendo no, questo è sbagliato, questo è pericoloso. Il concetto proprio della pericolosità secondo me è interessante, cioè quando qualcuno ci dice tu sei pericoloso vuol dire che siamo sulla strada giusta, cioè vuol dire che sei andata, no, te o qualche film vostro, qualche film mio o in qualche situazione pubblica a andare a toccare un nervo che è aperto, no? Che è aperto. Quindi non essere totalmente tutelati, non essere totalmente preservati, che è un po' intinta questa riflessione con il nostro momento storico, in cui la tutela, scusa, un problema con l'audio, in cui la tutela della salute, il nostro momento storico in cui la tutela della salute prevale sulla libertà. E lo fa su larga scala, quindi cioè, noi vediamo quanto è forte, quanto è pressante questo rinunciare a tutto pur di essere tutelati e nella comfort zone, a prova di bambino. Ma infatti guarda, quello che dici è assolutamente centrato su quello che stiamo vivendo in questo momento, non solo è centrato, ma mi sembra pericolosamente accettato dalle persone, cioè... in questo c'ha ragione una mia amica che ho conosciuto relativamente da poco tempo, che comunque ha detto una cosa giusta, ha detto io non voglio accettare il concetto della virtualità, no, io voglio conoscere le persone dal vivo, voglio fare le cose dal vivo, non voglio trovare un surrogato della realtà. Secondo me questa cosa ci deve far riflettere, perché se no finiamo per pensare che alla fine sì, si possono fare film virtualmente, cioè anch'io ho provato a fare delle cose durante questo Covid, no? Com'è andata? Racconta il progetto e dici com'è andata. È stata interessante perché abbiamo fatto una call durante il periodo proprio di ristrettezza forte del lockdown, a cui hanno aderito più o meno 17 persone, anche 4 gatti, e queste persone si sono filmate liberamente a casa E io ho cercato poi di mettere insieme questa roba creando un film di 30 minuti con un finale che non dico, che non spoilerò, però insomma in stile mio, che racconta un po' il dramma di questo lockdown, l'ossessione, la follia dello stare reclusi in casa. Però siccome noi siamo degli animali che si adattano, poi alla fine magari ci adattiamo e pensiamo che la nostra realtà sia dentro casa, come hai detto te, un po' protetti, no? Invece no, noi qui dobbiamo continuare, anzi dobbiamo riprendere, secondo me, a fare paura, a spaventare, a creare quelle rotture che poi permettono, cioè che poi da una parte creano il giudizio, per cui poi no, te diventi troia, io divento pericoloso, il pericoloso pornografo, eccetera, eccetera, e però che in realtà quel tipo di rottura poi è necessaria per capire noi che siamo sulla strada giusta. Ma cos'è quello che tu cerchi? Qual è la tua motivazione? Questa è una bella domanda. E in fondo, nella realtà, lo sto capendo dopo diversi anni ormai, no? Che ci conosciamo anche, quindi tutto sommato poi il mio percorso dentro la post-pornografia è praticamente iniziato insieme a voi, nel senso voi avete già fatto diverse cose, quando abbiamo collaborato insieme è da lì che poi è nato il mio interesse in questo ambito qua. Chiamami mamma. Non possiamo dirlo agli ascoltatori, ma una volta, quando te mi hai chiesto quanti anni avevi, e io ti ho dato un'età che secondo me era quella là, che forse era, forse, non so, 2-3 anni in più di quelli che avevi all'epoca, non l'hai presa bene. Non sei stato carinissimo. Vero. Stavamo andando, eravamo in macchina, io e te stavamo andando alla pasticceria e... Non hai presa niente bene, però dai, dopo ci siamo fatti, dai, dentro, chiusi negli ascensori sono successe cose interessanti. Vabbè, e dai, tra vecchi e ciccioni ci siamo trovati bene. Tra vecchi e vecchi e ciccioni sono il nostro must, vecchi ciccioni, e io aggiungerei tutti questi, no, del delivery, ma anche no, visto che comunque l'Italia non si è fermata nei cantieri, cioè capito, le maestranze, no? Interessanti, no? Cioè, quelli che fanno le pulizie a casa. Qua stai toccando dei classici. Dei classici. Vabbè, no, comunque noi siamo dei zozzoni, devo dire che effettivamente uno poi porta nella pornografia anche le cose che fanno più paura, quindi io con la mia età ci gioco, per carità. Una volta mi è arrivata un'intervista fake dove mi è stato detto che tu andavi in giro dicendo che io ero troppo vecchia per la scena e che era meglio che mi ritiravo, il che da una parte mi sono sentita anche lusingata, perché ho detto guarda chi è che si mette a fare una intervista fake così, cioè venendomi a dire, ha detto Lucio Massa che sei anziana. Cavoli, che sbatta che si sono fatti questi. Sai che poi io ho scoperto chi era quello là, poi te lo dico. Ok, fuori onda me lo dici, perché no? Vorrei creare fantacci. No. Guarda, sì, assolutamente, assolutamente sì. Quello che io sto cercando per rispondere alla tua domanda è alla fine un modo per rivendicare una mia forma di libertà. Cioè dire, a me, io sono così, cioè, come ha detto una persona che mi conosce molto bene, un giorno, recentemente mi ha detto, tu sei porco, cioè non è che ha detto altre cose, tu sei porco, per me era un bel complimento, cioè una cosa che dici, bello, cioè, io sono così, cioè, non c'è niente di male nel prendere atto, no, di liberarsi di questa cosa e dire ok, cioè a me piacciono i vecchi, stare negli ascensori, fare, no, Va bene, allora diciamo che siamo stati colti da un feticismo, io e Lucio abbiamo scoperto che stare insieme in un ascensore apre, come dire, delle prospettive interessanti, perché Lucio è un omaccione imponente e all'interno di uno spazio chiuso genera in me quel senso di sopraffazione che è uno dei miei ingredienti proprio sui quali so che subito perdo la testa, e quindi si è creata questa situa, no? Esatto, no, perché poi capito te, io capito, cioè secondo me è uno dei momenti più interessanti di uno dei vostri film, mio figlio è delicato, no, è quello in cui a un certo punto te nell'apice del tuo piacere inizi a dire dai, io sono una vecchia baldracca, dillo che sei una vecchia baldracca, che poi capito, cioè va bene, cioè introduci il tema, che poi no, il tema della vecchia baldracca, cioè che è proprio bello, cioè una cosa piacevole, cioè una cosa che cazzo, cioè, c'ha ragione. Bene, bene, perché poi alla fine diciamo le cose come stanno, vecchia, ormai sono vecchia, baldracca, non c'è mai stato dubbio. Allora, carissimo, sì, anche l'insulto è un feticismo e l'autoinsulto anche, noi ce li gustiamo tutti leccandoci le dita. Allora, carissimo, sono emersi veramente tanti spunti di cui mi piacerebbe parlare, del resto noi ci conosciamo ormai da un po' di anni, abbiamo fatto tante cose assieme, partendo dal film che tu hai diretto, al quale abbiamo partecipato come guest, come performer, e poi a seguire, quando tu appunto ti sei dato un po' a ramo, altre partecipazioni, collaborazioni, soprattutto più che altro partecipazioni al festival, che sarebbe adesso forse in atto. Allora, infatti Hacker Porn, che io e Franz Table abbiamo fondato 4 anni fa, si sarebbe dovuto svolgere proprio la scorsa settimana, purtroppo ovviamente per i vincoli del coronavirus non si è fatto, è stato posposto a data da definirsi, quando capiremo meglio come funzioneranno gli assembramenti, che a noi ci piacciono molto, e quindi... vedremo, però sì, in effetti voi poi siete stati ospiti praticamente di tutte le edizioni del festival, sempre con lavori molto, molto interessanti di rottura. Io avrei una domanda, posso farti una domanda? Certo. Cioè, volevo chiedere se a te ti piace il cazzo, cioè mi è venuto questo dubbio. Ti è venuto il dubbio, vero? Mi è venuto un po' il dubbio. Ebbene sì, io adesso voglio sfatare le malelingue e dire che mi piace il cazzo, non va molto di moda, lo so, perché è un classico che non fa in, come dire, però mi piace proprio il cazzo. E beh, a te cosa ti piace? Beh, a me mi piace la fica. La fica? Il culo. Il culo. Le tette. Lo sai che ho tolto i piercing? No, hai tolto i piercing. Non c'è più i piercing. Come? No. Tette senza piercing. Io invece ce l'ho il piercing. Lo so, però a me me li smanacciavano tutti continuamente. Bravo. No, in effetti ai cavezzoli, se la gente ti si attacca sempre, è un bel casino. Sì, perché poi devi correre al bagno a lavarti o avere delle salviette umide, ma ogni 2 per 3, mamma mia, no. È una bella rottura di palle. Sono belli da vedere, ma se le tette ce le hai sempre in mano alla gente che non si è lavata le mani perché stai in situazioni di promiscuità. Infatti, una delle situazioni di promiscuità in cui le tette vengono smanacciate anche da mani sporche, e qua cito te e dico: usare i guantini come il preservativo, quindi i guanti per filtrare il contatto tra mani e genitali, ma talvolta anche mani e capezzoli, non mi sarebbe dispiaciuto. È un gesto di rispetto che porta più serenità all'interno dell'interazione sessuale. Piccolo spot, spot progresso. E qua io introdurrei l'argomento della nostra chiacchierata, che è appunto la promiscuità per eccellenza, il Sex Positive Corner. All'ultima edizione eravamo già nel 2020, quindi era gennaio, mi pare, forse. Sì. Ed era probabilmente in giro perfino il coronavirus, ma non si sapeva. Quindi noi abbiamo fatto la nostra super mega orgia collettiva, stiamo tutti bene, questo perché rassicuro sempre gli ascoltatori, sì. È andato tutto bene, perfetto, e ci piace rievocarla. Io quello che vorrei, e soprattutto se hai qualche ricordo, qualche suggestione. Sì, ma devo dire che è stata, ci sono molto affezionato alla serata del Buca a Milano, perché intanto alla fine è stata l'ultima vero assembramento di corpi, come ci piace a noi, che abbiamo fatto, in cui c'era veramente, poi il posto era meraviglioso, cioè ex cinema porno, ex locale per spogliarelli, la dark room fatta nel loggione del cinema, che già quello praticamente faceva arrapare chiunque come noi e cerca questi posti malsani, pieni di sesso, di sborra, di cose, no, che si sono sedimentate nel tempo, quindi per me già quella cosa lì era super erotica. Però mi ricordo innanzitutto tantissima gente, veramente un carnaio di gente. La dark room era murata, non ci si riusciva a muovere, a uscire. Però cose interessanti, persone completamente diverse, cioè c'erano tanti gay, tante lesbiche, etero, cioè veramente una rappresentazione della sessualità, delle identità, veramente a ampio spettro. L'atmosfera molto molto carina, cioè tutte persone veramente super cool. E devo dire che ho due aneddoti di quella serata, diciamo tre. Tre aneddoti fondamentali. Uno è quello di una signora molto, che noi conosciamo, che però insomma adesso, mantenendo la privacy di tutti, una signora molto carina, molto timida, no? Che si è scopata tipo 5 pischelli dei 20 anni uno dietro l'altra. Oddio, dopo mi dici chi, perché io forse ero distratta. Eri un po' distratta. Stavo controllando, no, non ho contato. 5, però io mi ricordo proprio che lei li ha presi uno dietro l'altro, se li sbatteva, tra l'altro proprio vicino a me, no? E tu garantisci che era timida, cioè non era una vacca sfondata come me? No, cioè poi lei probabilmente anche, capito, cioè nel senso lei in modo timido è una persona che gli piace scopare, però in modo più timido, cioè non è proprio una vacca sfondata come te, cioè meno male che tu ci sei, apri la strada per tante donne che vogliono essere troie, insomma, no? Però ci riescono. Non è facile, per dire una roba seria, non è facile, tu lo sai perfettamente, quello che hai dovuto scontare sulla tua pelle, non è facile. E la lotta. È sicuramente per me la lotta, ma soprattutto molte difficoltà interiori, prima ancora che esterne. Immaginati le persone che hanno famiglia, figli. Anche io ho famiglia e figli. Lo so, perciò dico, secondo me poi alla fine le chiacchiere stanno a zero, nel senso che poi chi sceglie di fare certi percorsi dimostra di avere molto coraggio. Grazie. Ci vogliono anche persone come può essere stato per te Nicola, cioè tuo marito, che ti mettono nelle condizioni fisiche, mentali, psicofisiche di poter essere ciò che vuoi. Serve un'alleanza, sicuramente le condizioni sono fondamentali, quindi sicuramente un alleato. Guarda, importante. Secondo me hai detto una parola che mi ha colpito molto, perché recentemente proprio con una persona stavamo discutendo di che cosa poteva essere la nostra relazione, e la parola che è venuta fuori è stata proprio quella. Alleanza. Sì. Sì, è interessante questa cosa, è molto interessante. È fondamentale. E in situazioni come l'orgia l'alleanza la senti, perché sei in un contesto totale di alleanza, o si spera, o ci si sforza di farne, esatto, di gestirlo. A proposito di alleanze, alleanze minori, in realtà il secondo ricordo di quell'orgia lì è che a un certo punto te, verso, diciamo, metà fine serata, diciamo, oramai la serata è andata a tre quarti, e a un certo punto sei arrivata e eri in, cioè, c'avevi voglia. A un certo punto però, siccome questi maledetti che poi vengono sprovvisti di guanti, di cose, eccetera, quindi te non riuscì, poi Nicola era lì a fare il servizio d'ordine, quindi non era reperibile per l'uso. A un certo punto te l'hai proprio usato, sei venuta da me e mi hai detto: senti Lucio, per cortesia, hai detto una frase bellissima, che tipo io ho riso per mezz'ora, hai detto: scusami, per cortesia, mi puoi sturare, che è tutta la sera che non riesco a venire. Grazie, ti ringrazio ancora una volta per avermi sturato col tuo pugno maestro, ben guantato e soprattutto, come dire, pratico anche, di sturamenti di vagina, perché io nel gestire controllo, ma innesco, quindi mi arrapo continuamente, però un po' perché non mi potevo trattenere con uno solo, un po' perché, diciamo la verità, la tua mano la conoscevo già, molto meglio andare sul sicuro che andare a improvvisarsi con qualcuno che gli dici: senti scusa, mi fai venire, bisogna cominciare dall'ABC, perché le donne orgasmano. Eh sì, pensa a te, figurati, da lì al fisting, no? E quindi sono venuta, come dire, nel porto sperimentato, e ti ringrazio, perché una mano o un'amica non bisognerebbe mai negarla. Sì, appunto, cioè lì la mano è sempre a disposizione nel momento del bisogno. Che cazzo, diciamolo. Il terzo episodio è stato legato a questa attività che ultimamente, questa pratica sessuale un po' kinky, non proprio convenzionale, che nell'ultimo annetto sto sperimentando, che è quella degli aghi, no? Degli aghi sotto pelle. E a un certo punto, verso la fine della serata, quando era poco dopo che tu sei venuta, per il nostro piacere, ho preso un mio amico che era lì e gli ho praticamente, Fede, che tra l'altro saluto, se ci ascolta, e gli ho detto: senti dai Fede, facciamo due aghi, perché io proprio adesso ho sempre bisogno di fare aghi, cioè o mi devo mettere gli aghi o mi devo mettere... Sei un agopunturista. Sì, sì. E quindi lì a un certo punto si è svuotata la stanza, cioè hanno avuto tutti paura. Io non ricordo che ho tirato fuori tre aghetti, si sono messi tutti paura e si è svuotata quell'ultima stanzetta dove eravamo. E ti dirò di più, io ho sentito feedback posteriori di persone grandi e grosse vaccinate che mi hanno detto: che paura quell'omaccione grande e grosso che poi a un certo punto si è messo pure a infilare gli aghi addosso alla gente. Ma era autorizzato? Ma tutto a posto? Cioè, perché era lì a minacciarci? Di solito quando uno mi dice così è perché si è arrapato tantissimo e si è spaventato tantissimo. Infatti io poi in quel caso dico sempre: ti è piaciuto, eh? Porcaccioni! Ma infatti è vero, vabbè, è vero anche che la mia fisicità talvolta, no, mette un po' in... può mettere un po', no, non dico a disagio, però sicuramente sono una persona fisicamente ingombrante, però il tema più interessante, battute a parte, invece è proprio quello che dicevi te, alla fine certe pratiche, che poi talvolta possono essere estreme come quella degli aghi, ma altre volte possono essere ancora più banali, a cui però qualcuno non è preparato, e quella roba lì gli crea uno shock, che però, se lo, come giustamente te da persona esperta dell'essere umano, quando tu la analizzi poi è legata al fatto che ti sei arrapato, che quella cosa ti ha creato uno shock, per cui tu ci pensi, vorresti farla, vorresti, però quantomeno vorresti pensarla, no? Magari provarla, e quella roba ti arrapa e ti repelle. E il concetto di, secondo me, interessantissimo è proprio quello dell'arrapamento e della repellenza, cioè il fatto che poi un po', secondo me, chiude il cerchio della discussione da cui siamo partiti, no? Delle nostre ricerche, cioè andare dove gli altri non vedono, cioè andare a cercarsi le persone che nessuno vorrebbe scopare, una forma di ricerca che non è per tutti alla fine, secondo me, perché poi anche nell'ambito del sex positive, di gente che fa meno ricerca, però io sento esprimere giustamente dei punti di vista e dici no, quel tipo di persona non fa parte del mio immaginario. Mentre io credo che, secondo me, una cosa che ho sempre apprezzato di te e anche di Nicola, che sento sempre affine a me, è proprio invece questa forma di ricerca molto aperta, in cui nella realtà non c'è un filtro su un tipo di persona, dici mi piace quello, no, a noi ci piace il cazzo, ci piace il culo, ci piace le persone, non se quella è alta, bassa, alto, basso, magro, grasso, c'ha il cazzo grande, c'ha il cazzo piccolo, a noi ci piace tutto, ci piace quello che viene, ci piace venire e far venire. Venire e far venire. Va bene, grazie Lucio, è stato un piacere anche risentirti, sentire che stai bene, ricordare un po' di bei momenti, in attesa di qualcos'altro che non so in che ambito sarà della nostra esistenza, ma io penso che dai, a breve il vostro divano allucinogeno vedrà il tuo culo. Del resto sì. Siamo dei cari, noi siamo affetti, sì. Stabili. No, io credo una cosa, voglio ricordare questo aneddoto prima di salutarci, perché secondo me è proprio fondamentale. Io credo che una delle cose più divertenti che ho condiviso con voi è il trauma che abbiamo procurato al consegnatore delle pizze una sera. Perché? Cioè, lì è stato proprio un gioco di squadra. Perché? La situazione. La situa, adesso voi non ci potete vedere, però immaginatela, la situa era questa. E arriva il tipo delle pizze, Maria Tinka apre nuda, e già il tipo si spaventa, perché poi si spaventano, cioè non è che dici si arrapano, si spaventano per poi arraparsi magari dopo. Ma non basta, perché poi nel salone c'era Nicola con il vulcano, il palloncino del vulcano che cercava i porti di nell'universo, e c'ero io praticamente spalmato sul divano nudo, e quella roba, cioè, credo che gli abbia creato dei veri problemi, cioè, se in qualche modo era nel paese delle meraviglie, aveva mangiato il funghetto, sì. Capito? Cioè, lì è stato bello, è stato un bel momento. Bello, bello. Lo rifaremo con le mascherine. Va bene, tesoro, è stato un grande piacere. A prestissimo. Ciao, ciao ragazzi, un bacione. Ciao Nick, ciao. Ciao, alla prossima. È finita la terza puntata del salotto porno nerd della Tinka. Bye bye. Nicola era Bruno, gli organizzatori di Buca sono Stefano Annibale e Matteo Saltalamacchia. Abbiamo ricordato e ragionato sull'orgia e sul sex positive corner nello specifico nella sua ultima occasione prima del blocco Covid. No. Basta. Alla prossima!